Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Un nome, una città ci hanno indicato gli dei dell'Olimpo e dello sport su cui concentrare la nostra attenzione, ma anche i nostri sentimenti, il nostro cuore, in questo inizio del 2015. Ypres in francese, Ieper in fiammingo, in Belgio, città simbolo della Prima Guerra Mondiale. Lungo quel fronte occidentale, e gli ascoltatori di Olimpia lo sanno bene, si verificò durante il primo Natale della Grande Guerra quella tregua che interruppe per qualche ora, per qualche giorno, i combattimenti, anche con qualche commovente partitella di pallone. A Ypres i tedeschi utilizzarono per la prima volta i gas tossici che furono una delle armi più subdole e terrificanti di quel conflitto. E proprio a Ypres, in questi giorni, il Museo dei Campi delle Fiandre, uno dei massimi centri di studio internazionali sulla Prima Guerra Mondiale, ha organizzato una mostra dedicata proprio agli sportivi durante la Grande Guerra. E Olimpia allora proprio a Ypres si è trasferita per parlare di questa mostra, di questo argomento, ma anche per ripercorrere la carriera e la vita di un campione di 100 anni fa che unisce ancora oggi le storie sportive di Italia e Belgio. Salutiamo subito allora il nostro ospite, Pieter Trog, ricercatore dell'Inflanders Field Museum di Ypres e coordinatore della mostra dedicata agli sportivi alla Grande Guerra. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. You're welcome, hi. Welcome in Ypres and the Flanders Field Museum. Dottor Trog, ci fu un modo peculiare, specifico, con cui gli uomini di sport parteciparono al primo conflitto mondiale? Prima di tutto, bisogna sottolineare che anche gli sportivi, come molti altri giovani in Europa, non seppero allora resistere alla chiamata della guerra, alla voce che li chiamava in trincea, in battaglia. Quindi molte giovani promesse dello sport diventarono in breve soldati, cambiarono la loro finalità, i loro obiettivi, dal vincere una gara, una corsa, all'uccidere un nemico nella trincea che avevano di fronte. Per molti di loro fu un'esperienza nuova, sconvolgente. Durante la guerra molti di loro cercarono di mantenere viva la loro passione per lo sport e cercarono di praticare sport nelle retrovie, quando era possibile, pur fra mille difficoltà. Come quella guerra cambiò la percezione, il senso dello sport e la stessa cultura sportiva del tempo? Parlando solo di quanto accadde qui nelle Fiandre, in queste trincee convissero e combatterono soldati di circa 60 diverse nazionalità, che sui campi di battaglia mescolarono le loro culture, i loro usi, le loro abitudini, ma anche i loro sport. Molti soldati belgi incontrarono commilitoni francesi, inglesi, indiani. Ci furono gare di diverse discipline e lo sport contribuì a creare anche amicizie, una coesione che poi tornava certamente utile in combattimento. La guerra arrivò nel momento in cui una cultura sportiva popolare si stava propagando nel continente a partire proprio dalla Gran Bretagna. In Belgio, ad esempio, i primi club calcistici e di canottaggio nascono a cavallo tra fine 800 e inizio 900. Poi arrivò il conflitto. Questo processo si interruppe, ma al tempo stesso il conflitto favorì anche questo interscambio culturale. E dopo la guerra in Belgio furono introdotti nuovi sport, l'interesse per i quali era nato proprio in quelle trincee. Qui nelle Fiandre, ad esempio, proprio il calcio venne portato dai soldati inglesi, che lo insegnarono ai bambini belgi. C'era un interscambio continuo. Quel che accadde anche attraverso il conflitto fu che sport che prima della guerra erano considerati esclusivi dell'aristocrazia o dell'alta borghesia europea si diffusero tra i ceti più popolari. Perché la guerra aveva reso tutti più uguali. In quelle trincee, molto spesso, contadini e borghesi, operai e nobili, pur con ruoli diversi, avevano combattuto fianco a fianco, condiviso gli stessi dolori, le stesse sofferenze. Dopo la guerra, come conseguenza, fu in qualche modo più facile vedere un operaio iscriversi a un club calcistico o a una società ciclistica. After the First World War, everyone was able to subscribe in a football team or cycling team or a rowing team or whatever. C'è un campione, dottor Trog, che unisce ancora oggi le storie sportive di Italia e Belgio. Un campione che seppe trionfare in campo prima e dopo aver servito la propria patria in quelle trincee. Lo chiamavano il pallido saettante, Luis Van Ecke. I suoi fan milanisti, tanto era chiara la sua pelle, tanto era veloce il suo dribbling, il suo zizzagare tra gli avversari, sorpresi e immobili come birilli. Nel lontano 1915, la Gazzetta dello Sport premiò proprio Van Ecke, formidabile centravanti del Milan, quale footballer più popolare del momento. Furono i lettori, attraverso un referendum, a decretarne la vittoria. Van Ecke, nato a Bruxelles l'8 maggio del 1889, aveva esordito nel calcio nell'Union Saint-Gilloise, divenendo presto un vero idolo. La sua fama valicò le frontiere e il 27 marzo del 1910 la squadra belga, invitata dal Milan, scese all'Arena di Milano, rifilando un sonoro 2-0 alla compagine rossonera. Nella formazione belga non c'era traccia di Van Ecke, non sappiamo se assente per infortunio oppure indicato con un nome errato nella formazione, ma di certo quella fu l'occasione in cui vennero poste le basi per il suo trasferimento al Milan. Insieme ai compagni di nazionale Max Tobias, futuro capitano milanista, e Roger Pierrard, quest'ultimo dopo poche amichevoli, ritornato in Belgio. In Italia, a partire quindi dalla stagione 1910-11, Van Ecke confermò le sue straordinarie qualità realizzatrice. Oltre 90 furono le reti in 5 campionati e divenne celebre per il suo dribbling che, nonostante un fisico minuto, lo rendeva pressoché imprendibile. Il pallido saettante rimase alla testa dell'attacco rossonero, spingendo la squadra a 2 piazzamenti d'onore, fino a quando lo scoppio della Prima Guerra Mondiale lo costrinse ad abbandonare il Milan per prestare servizio militare nel proprio paese. Durante la sua permanenza in rossonero, Van Ecke era sì calciatore, ma come molti campioni del tempo, lavorava anche, era impiegato nella sede della Pirelli. Quando usciva dal lavoro, recitano le cronache, per raggiungere il campo d'allenamento dell'Acqua Bella, correva dietro ai tram che riportavano a casa i suoi colleghi. Le sue medie realizzative sono sempre state da capogiro. Basta guardare il curriculum. 18 gol in 17 gare al secondo anno, 17 in 18 al terzo, e il meglio doveva ancora venire. Basti pensare a quei 7 gol che Van Ecke segnò il giorno dell'esordio del campo del Bologna. In piena guerra fu richiamato in patria e lasciò gli amati colori rossoneri, salutando i compagni piangendo. Avrebbe voluto servire la patria qui, in Italia, combattendo nell'esercito italiano, ricorda la Gazzetta dello Sport salutando. Piangeva Luis. Sullo scudo di Milano che ornava le strisce rossonere colavano le lacrime del bomber. Tornò in Belgio, Van Ecke. Altri rossoneri lasciarono insieme a lui quella casacca per partire per quella guerra, ma da quelle trincee, a differenza di quanto accadde a Van Ecke, non tornarono mai più. Ne ricordiamo qui uno, Erminio Brevedan, attaccante del Milan nella stagione 1914-15 e compagno di reparto proprio di Van Ecke. Trevigiano, nato alla fine del novembre del 1893, Brevedan esordì in maglia rossonera nell'ottobre del 14, giorno in cui il Milan annientò l'Audax Modena con un 13-0 difficilmente eguagliabile. Erminio in quell'occasione firmò una tripletta. Arrivò poi la guerra. Lasciati i panni dell'attaccante, Brevedan indossò quelli di ufficiale dell'esercito italiano, componente della Brigata Marche, 55esimo Fanteria, che in tempi di pace era a distanza a Treviso. Allo scoppio delle ostilità la brigata si trasferì in Cadore, nelle valli del Boite. Non ostacolata dal nemico, la Marche occupò il fronte Forca Tre Croci, lembo orientale del piano della Bigontina. A metà luglio si registrò il primo sanguinoso scontro contro le posizioni nemiche. 2 battaglioni del 55esimo avanzarono verso Montepiana, esposti al micidiale fuoco austriaco. L'avanzata dei soldati italiani riprese poi tra il 17 e il 20 luglio. In quei giorni la Brigata Marche registrò il grosso delle perdite in battaglia. 87 morti, fra cui 8 ufficiali e quasi 800 persone fuori combattimento. Il bollettino di guerra riportò tra i deceduti anche il nome di Brevedan Erminio di Elia, sottotenente, caduto sul Monte Piana il 20 luglio del 1915. Non aveva ancora compiuto 22 anni. Brevedan fu il primo calciatore milanista a morire nella Grande Guerra. Il conflitto finì. Van Ecke tornò brevemente in Italia per raccogliere i fondi per i sopravvissuti e con una raccogliticcia nazionale belga giocò 2 amichevoli contro l'Italia e il Milan. Divenne poi rappresentante della Pirelli in Belgio e stella dell'Anderlecht di Bruxelles, la più titolata squadra belga di sempre. Con lui in attacco brillava Venerino Papa, altro ex rossonero inviato nelle Fiandre sempre come rappresentante della Pirelli. E poi nel 1920 il successo più bello della carriera di Van Hegge, proprio con la maglia del Belgio, proprio in quelle Olimpiadi di Anversa che segnarono il ritorno alla vita, segnarono la rinascita dell'Europa e del mondo dopo il primo conflitto mondiale. Il Belgio del calcio conquista l'oro olimpico, battendo in finale la Cecoslovacchia per 2-0, la finale forse più assurda di sempre, con i cecoslovacchi che si ritirarono alla fine del primo tempo per protesta contro l'arbitraggio dell'inglese Lewis. Un'altra avventura nell'incredibile carriera e nell'incredibile vita di Louis Van Hegge, che poi sarà anche vicepresidente della sua Union Saint-Gilloise prima di spegnersi nel 1975. Ma il suo ricordo è ancora vivo nei cuori dei tifosi rossoneri. Pieter Trog, ricercatore dell'Inflanders Fields Museum di Ypres, abbiamo rivissuto insieme la parabola e la storia di Louis Van Hegge, bomber del Milan e della nazionale belga, ma anche soldato nello stesso esercito belga durante il primo conflitto mondiale. Ecco, cosa lasciò l'esperienza della guerra agli uomini di sport che da quelle trincee riuscirono a fare ritorno? For some sportsmen, for instance, cyclists, there are some people who, per molti sportivi, mi vengono in mente ad esempio i ciclisti, l'esperienza delle trincee fu in qualche modo funzionale al forgiarne tenacia, carattere e resistenza. Senza contare che molte gare svoltesi già nel 1919, a conflitto appena terminato, fecero direttamente riferimento all'esperienza bellica. Attraversarono le vie ancora martoriate dei campi di battaglia. Vero pure che nel primo dopoguerra anche la cultura sportiva cominciò a cambiare. Gli sportivi cominciarono lentamente a specializzarsi, a scegliere in modo più deciso e immediato la propria disciplina di riferimento, a sviluppare una mentalità e un allenamento più professionale. Un'attitudine che proseguirà per tutto il XX secolo. Which has always further developed through 20th century. Grazie a Pieter Trog per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Olimpia, miti e verità dello sport. Obiettivo 2024. Beh, ormai lo sapete, lo sappiamo, Roma e l'Italia hanno lanciato la propria candidatura olimpica proprio per il 2024. C'è l'appoggio del governo Renzi, mentre invece era mancato quello dell'allora premier Monti alla corsa olimpica per il 2020, poi vinta da Tokyo. Staremo a vedere come finirà questa volta. Ma intanto gli dei dello sport e dell'Olimpo ci invitano a rivisitare le edizioni dei giochi ospitate dal nostro paese. E allora, tra presente e passato, torniamo a Cortina 1956, quando la Perla delle Dolomiti ospitò la settima edizione delle Olimpiadi invernali. E lo facciamo con la guida di un ampezzano illustre, uno degli uomini jet del nostro sci alpino. Christian Ghedina, classe 1969, 3 medaglie mondiali e 13 vittorie tra discesa libera e Super G in Coppa del Mondo. Benvenuto Christian a Olimpia, la città dello sport. Grazie mille e ciao a tutti. Beh, Christian, tu sei stato protagonista del Circo Bianco negli anni 90 e 2000, ma proprio sulla pista di casa, quella di Cortina, hai conquistato la tua prima vittoria in Coppa del Mondo, vero? Esattamente. Proprio sulla pista che si chiama Olimpia, che è la pista dove poi hanno fatto la gara delle Olimpiadi, ben diversa da quella che facciamo noi, che si fa oggi o che si era fatta anche quando avevo vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo. Perché ho visto delle immagini delle Olimpiadi ed era veramente incredibile. Questi qua erano veramente dei campioni, questi che scendevano con questi sci di legno e scarpe di pelle, veramente incredibile. Hai fatto storia perché eri considerato uno dei più spericolati del circuito, però rispetto a un Tony Seiler forse anche tu potevi essere considerato quasi uno sciatore prudente a quel punto. Sì, forse sì, ma magari se forse correvo a quei tempi, chissà, ero come Tony Seiler, magari matto, se non so se era lui era considerato un matto, però lì bisognava avere veramente, come si dice in gergo, il pelo sul stomaco per scendere, perché vedendo le immagini erano veramente, cioè, facevano di quelle discese che sembrava che cadessero da un momento all'altro, anzi delle volte mettevano giù il sedere, si rialzavano, cosa quasi improponibile e impensabile oggi, perché quando con le velocità che ci sono, che sono aumentate molto, quando metti giù la schiena o sbagli un po', vai a rischio di cadere quasi sicuramente, però di farti del male. Dicevamo di Toni Sailer, il fenomenale austriaco che a Cortina vinse i tre ori dello sci alpino, oltre a quello della combinata, allora valido solo come titolo mondiale. In qualche modo questo grande campione è stato di ispirazione anche per te? Sì, diciamo che Toni Sailer l'ho anche conosciuto personalmente, una persona sì in gamba, poi dopo vabbè lui ha vissuto... diciamo non so, forse tre generazioni prima di me, ha fatto le gare 3-4 generazioni prima di me, però diciamo forse non era nemmeno il mio idolo. Io, se devo dire la verità, uno dei miei idoli era un atleta italiano che faceva Coppa del Mondo, che però non era uno famoso. Poi man mano andando avanti col tempo, perché questo quando ero piccolino così, io avevo proprio la passione dello sci e delle gare, della velocità. Poi per esempio io sono nato, che questo l'ho saputo da un altro olimpionico, Bernard Roussy, sono nato e sempre vissuto, dove vivo tuttora, sotto il trampolino che era stato costruito, ancora non so in che anno, però era il trampolino d'allenamento dove saltavano i saltatori prima del trampolino olimpico. Praticamente quando venivo a casa io, ci sono, quando ero piccolo, che adesso sono pieno di alberi, venivo giù e c'erano ancora le mura del vecchio trampolino, facevo il salto, mi divertivo e pensavo a questi qua che facevano le gare, era veramente incredibile. Beh, davvero basti questo esempio per far capire l'atmosfera che regna ancora oggi a Cortina d'Ampezzo. Ma torniamo con la memoria a quel 26 gennaio del 1956, giorno d'apertura dei giochi invernali della 7ª Olimpiade. Arriva il Presidente della Repubblica con le alte autorità dello Stato e dello sport allo Stadio del Ghiaccio di Cortina, gremito di 10.000 spettatori. Sfilano in perfetta parata sulla ghiaccia superficie i 1.200 atleti rappresentanti 32 nazioni e si dispongono in quadrato. Poi avanzano, nell'accecante sole dell'Alpe, le bandiere per il rito solenne. Giovanni Gronchi proclama allora aperti i 7ª giochi invernali olimpionici. E fra gli applausi della folla entra nello stadio il patinatore Caroli, reggendo nella destra la fiaccola olimpionica. È l'ultimo tedoforo cui è giunta da Roma, passata da mano a mano di atleti italiani, la fiamma del Tempio di Giove, con la quale accende nell'alto tripode il fuoco di Olimpia, che arderà sino alla fine dei giochi a simbolo di purezza e di lealtà. Così si aprivano i giochi di Cortina 1956. L'Italia, che si era da pochi mesi avviata verso il miracolo economico alla guida della Fiat 600 e che si appassionava all'ascia o raddoppia condotto da Mike Bongiorno, aveva stanziato ben 3 miliardi di lire per organizzare quell'Olimpiade. Inevitabile, allora come oggi, l'immancabile interrogazione parlamentare al proposito. A parte qualche intoppo, proprio Caroli, pattinatore ultimo tedoforo, inciampò sui cavi elettrici della TV prima di accendere il sacro fuoco, tutto fila liscio. Per la prima volta nella storia olimpica il giuramento è letto da una donna, la sciatrice azzurra Giuliana Minuzzo Chenal, bronzo a Oslo 52. Il re è però austriaco, si chiama Toni Sailer, ha 20 anni e domina tutte le prove dello sci alpino, anche se vince la discesa libera solo grazie all'intervento di un allenatore italiano che gli ripara una delle cinghie che legano gli scarponi agli sci prima della partenza. Dominio austriaco nello slalom gigante maschile, corso sulla pista dei vitelli su Afaloria. Tre atleti dell'Austria, magnifici per potenza e stile, si sono piazzati ai primi posti, confermando del resto il pronostico della vigilia. Su 30.000 spettatori sul percorso, 10.000 erano austriaci e hanno decretato gli onori del trionfo al connazionale ventenne Toni Sailer, che da 2 anni non conosce sconfitta, giunto primo anche al traguardo olimpico. Gran Don Giovanni, squalificato poi per professionismo, attore, pilota di auto da corsa, Sailer si ritirerà poi nel 1959 per spegnersi nel 2009 dopo una carriera e una vita piene di successo. Quelle di Cortina sono anche le prime Olimpiadi con l'Unione Sovietica in campo. I sovietici sorprendono nell'hockey su ghiaccio gli strafavoriti canadesi e calano un asso straordinario nel pattinaggio di velocità, il fenomenale Eugeni Grishin. E sulla pista magica di Misurina il primo record mondiale. Il russo Eugeni Grishin polverizza il suo stesso primato sui 500 metri. Partito con velocissimo scatto, ha subito staccato e poi doppiato il compagno di gara, aumentando progressivamente la potenza della sua azione. Il suo patinare assomiglia a tratti al volo radente di un falco che sfreccia sulla preda. E per lui la preda è il tempo, che ghermisce e domina. Secondo un altro russo, terzo un norvegese. Il finlandese Ivarinen domina nel salto dal trampolino, adottando uno stile nuovo e più aerodinamico che sopravvive ancora oggi. L'americana Albright incanta nell'artistico, in una gara che neppure avrebbe dovuto disputare, causa un profondo taglio procuratole da un pattino a pochi giorni dal via dei giochi. E l'Italia domina nel bob, ma non con l'attesissimo idolo di casa Eugenio Monti, che deve accontentarsi di due argenti, ma con il duo Lamberto Dalla Costa Gianluigi Conti, il primo vicentino, il secondo palermitano e 48enne, ma fenomenale in fase di spinta e come frenatore. Anche all'Italia è toccato l'alloro olimpico per virtù e valore di due equipaggi del più spericolato degli sport invernali, il bob a due. Un vero trionfo azzurro. Ecco partire i vincitori Dalla Costa e Conti, che saranno seguiti al secondo posto dal bob di Monti e Alverà, che partirà poco dopo. Sulla lucida pista di ghiaccio, i bolidi non sembrano rallentare neanche nelle complicate curve del labirinto, né su quelle più ampie ma più veloci del Belvedere. Il bob vittorioso di Dalla Costa piomba come un proiettile sull'ultima curva, che immette al breve rettilineo finale. Una brusca frenata e il lauro olimpico è conquistato tra gli abbracci entusiasti degli amici. I giochi si chiudono il 5 febbraio del 1956. Per l'Italia tre ori, un argento e due bronzi. Da Cortina, la fiaccola olimpica passa idealmente a Roma, che ospiterà le Olimpiadi quattro anni dopo, nel 1960. Allora, Cristian Ghedina, abbiamo rivissuto le Olimpiadi della tua Cortina nel 1956. Sarebbe però ora il caso di rinverdire quei fasti. Ahi noi, di recente proprio Cortina ha perso la corsa ai mondiali di sci del 2019. Cosa manca secondo te per tornare a rivivere quelle emozioni? Sì, è vero. Infatti proprio prima dicevo questo, insomma, che Cortina siamo rimasti un attimino indietro e Cortina si meriterebbe... si meriterebbe un altro evento importante, grande come è stato quello delle Olimpiadi e di conseguenza proprio un mondiale che abbiamo perso già per la quarta volta. Adesso si ricandidano per la quinta volta, speriamo sia la volta buona. Bisogna sicuramente lavorare un po' a livello politico, perché adesso funziona tanto così, però come dicevo prima sicuramente dobbiamo offrire quel qualcosa che al momento un po' ci manca, sostanzialmente strutture nuove o aggiornate, impianti più recenti, collegamenti, strade, parcheggi, quello che un po' manca a Cortina per renderla una cittadina, insomma, più presentabile al pubblico che viene qua, perché ha il suo fascino, sì, ma noi abbiamo la fortuna di avere delle montagne che essendo andato in giro per il mondo e avendo girato tutto il mondo per gare di sci e per tutto quello che ho fatto nello sci, insomma, è veramente una località fantastica come morfologia del terreno, dove ci troviamo questa conca qua, però la si può far diventare ancora più bella. Se ci fosse un mondiale sicuramente è una buona scusa per farla diventare ancora più bella. Senti, siamo in chiusura, confessacelo. Ogni tanto inforchi ancora gli sci e ti fai una bella discesa sulla pista della tua prima vittoria in carriera? Ma io soffro. Adesso io sono allenatore della squadra croata da 3 anni di Kostelic e stando in parte a bordo pista così, guardando gli atleti, non solo lui, anche quando ci sono le gare, guardando tutti gli altri... Ogni tanto mi verrebbe veramente da prendere gli sci e fare mettermi su io e mostrargli a tutti i miei compagni quello che in teoria facevo una volta, però non essendo più allenato non lo può più fare. In più anche a Cortina ogni tanto, come hai detto tu, sì, come mi hai chiesto, io sì, mi faccio le mie sciate, però mi accorgo che purtroppo la mente va avanti veloce e tu pensi di poter fare tanto, però il corpo, non avendo l'allenamento adeguato, non risponde più come dovrebbe rispondere, come rispondeva una volta. E penso che tutti questi se ne accorgano in qualsiasi cosa che si fa, i recuperi diventano più lunghi, poi chiaramente non preparandosi non si può più pensare di fare quello che si faceva quando si era più giovani, e d'altronde bisogna fare i conti con la carta d'identità. Cristian Ghedina, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. grazie mille a voi e alla prossima volta allora. Davvero bello rivivere insieme a Cristian Ghedina le Olimpiadi di Cortina 1956 e aver rivissuto anche le emozioni di 100 anni fa visitando la mostra dedicata agli sportivi alla Grande Guerra dal Museo delle Fiandre di Ypres in Belgio. Beh, per l'appuntamento di Olimpia di questa settimana è tutto. Vi ricordo che potete scriverci alla mail olimpia@radio24.it e riascoltarci in podcast attraverso il nostro sito radio24.it. Un grazie a Paolo Corleoni in regia. L'appuntamento con Olimpia è come sempre domenica prossima alle 16:30. Ciao a tutti.